parlarsi fa bene, però le parole fanno male. No, non mi taglio le vene e neanche vado in ospedale. Faccio un giro nel freddo glaciale, questa felpa forse mi basta. E se inizia il temporale, posso sempre mettere le mani in tasca. E chi se ne frega se il ponte non regge, mi faccio un bel volo, tranquillo che ci vediamo a novembre, sotto quei palazzi, come sempre. Quante volte ci hai provato, tu davvero ci hai provato, a lasciare l'isolato, eh? O stai seduto composto, perché non ti hanno mai detto che il mondo è nostro. All the ringing alarms, screaming all over. You know to release your doubts and wake up from coma. And all the wandering charms drive you sober. And tie the rope from your arms and fly away. Salgo sopra un aeroplano e aspetto che l'ala prenda fuoco. Per me non c'è niente di strano, per te di sensato c'è poco. Hai mai fatto i chilometri a nuoto? Sei mai andato dove non dovevi? Se hai vissuto cose belle, sai pure quanto sono brevi. Io ho scavalcato, ho corso forte contro un destino col fucile, ma mi ha mancato, e adesso sto senza fissa dimora, con lei che mi fissa da un'ora. Che qualcuno ammetta quanto la paura ci distrugge a tutti senza senso, crea quelle tre parole, poteva essere diverso.